avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un pas. Mi è venuta un'idea balzana. Mi è venuta quando mi sono accorto che il Sole 24 Ore, ma non lo dico per prodomo mea, non mi viene nulla, però mi divertiva l'idea, ogni domenica esce con un racconto d'autore a un prezzo ridicolo allegato al giornale. E mi piace vedere l'idea che ogni settimana, da Hemingway a Roth, a Kafka, domenica uscirà un libro di John Fante, riproponga la grande letteratura, i classici della letteratura, quello che è stato l'alimento dello spirito dei nostri genitori e anche forse dei miei coetanei, dei cinquantenni, come un gadget di lusso, come qualcosa che è venduto a basso prezzo perché tutte ne possano usufruire, perché nelle case non esistono più le biblioteche con i grandi classici. Mi sono domandato quale sia oggi il sostituto di questo nutrimento dell'immaginario che faceva sognare e volare al di là, al di sopra della realtà, le persone che ancora avevano il libro come unico supporto, unico vettore del proprio immaginario, unico oggetto fisico che fungesse da grimaldello nel muro impenetrabile della realtà. Quali sono oggi i vettori e i supporti dell'immaginario? Se vi dico la parola immaginario, associata appunto alla parola racconto, alla parola letteratura, alla parola romanzo, cosa vi immaginate? Vi immaginate una fiction televisiva? Vi immaginate dei film? Vi immaginate il videoclip di una canzone? Vi immaginate la musica sottofondo al vostro quotidiano? Vi immaginate il vostro profilo Facebook? Vi immaginate il vostro blog? Vi immaginate quella forma fantastica di autoletteratura immersiva che ognuno di noi pratica senza essere nella dicitura comune né poeta, né letterato, né scrittore, né romanziere, né uomo di sogno? 800240024, parliamo oggi del nostro concetto di immaginario, noi che cerchiamo di farvi immaginare parlando alla radio. Il grande potente oggi ha parlato! Non fate caso a quell'uomo nascosto dietro alla tenda. E lei chi è? E chi sono io? Io sono il grande potente mago di Oz. Sul serio? Certo, non sì. Posso crederci. E invece la verità, qui non esiste nessun altro mago oltre a me. Brutto imbroglione. Brutto. Questa è la metafora che più sento legata, attanagliata, fantasticamente affine al mio lavoro quotidiano, il grande mago di Oz. Il medium a mia disposizione, che è esattamente come quelle signore accecate e vestite di veli candidi che agli inizi dell'Ottocento facevano ballare i tavolini e mettevano in comunicazione il mondo fantastico dei trapassati con il mondo dei vivi, erano medium, quindi erano vettori di fantastico, vettori di immaginario. Oggi il medium è questo microfono qua davanti, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti al di là di una lastra di cristallo, il cronometro che segna l'incedere del mio tempo che manca appunto alla linea che devo dare io alle informazioni della borsa. L'idea che sto cercando di accarezzare, il feedback immediato che vedo nel profilo Facebook della mia trasmissione, in cui già cominciano a scrivere le persone. Tutto questo è la grande struttura, la grande macchina fantastica che fa che un omettino in redingot, piccoletto, anche abbastanza ridicolo, come appunto è l'animatore del grande mago di Oz, possa far credere di essere un grande risolutore di casi umani. Questa è la radio. La radio è la macchina del mago di Oz, ma se lo è la radio, lo dico con consapevolezza, è la grande macchina del mago di Oz che ci circonda, ci sovrasta, ci fornisce soluzioni immaginarie ai nostri problemi pratici, è quella appunto fatta di televisione, fatta di cinema, fatta di musica, ma fatta oggi anche di qualcosa di molto meno legato apparentemente al mondo dell'immaginario. Oggi anche la politica è fantastica narrazione, oggi anche i politici quando vanno in televisione, ieri ho visto l'ultima puntata di Santoro, era una fantastica pièce teatrale in cui Santoro faceva il trick ballacche. Brunetta gli riprendeva su questo. Di Pietro aveva una sua parte. Tutta una serie, c'era Bersani, c'era Castelli, c'era tutta una serie di politici e sembrava una fantastica farsa della realtà. Eppure parlano di realtà, ma non lo dico con il senso disperato di colui che dice anche mondo siamo, lo dico con la persona affascinata del tempo in cui vive, tempo in cui immaginario e realtà si fondono mirabilmente. 800 24 00 24. A me sorge una domanda, ma la televisione è sempre stata così? Il mago, la macchina del mago di Oz è sempre stata così? Non c'è stata una televisione, quella di quando ero bambino, che era più vera, era meno funzione, era meno apparenza? Una volta si sapeva quello che era vero in televisione, o perlomeno era probabilmente vero in televisione, e oggi invece tutto può essere finto. Può essere finto anche la reazione di Fazio all'altro giornalista, come può essere finta qualsiasi reality. Non si capisce più dov'è il vero e dov'è non è il vero. Silvia Leonzi, è importante capire dove sia il vero e dove non sia il vero? No, secondo me non è importante, nel senso che è praticamente impossibile. Quello che diceva poco fa l'ascoltatore, secondo me è uno degli inganni dell'immaginario, nel senso che nasce semplicemente da una distorsione, da un effetto nostalgia per cui quello che è passato ci sembra più vero, no, di quello che invece è presente, ma in realtà è altrettanto falso e altrettanto vero allo stesso tempo. Silvia Leonzi, che ho introdotto in maniera così brusca, è una professoressa e docente di sociologia dei processi culturali e comunicazione alla Facoltà di Scienza della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, ma è qua perché è autrice dello spettacolo dell'immaginario, I miti, le storie media, edizioni Tunuè, che è una piccola casa editrice, però questo è un grande libro, quei libri che normalmente non partorisce l'Accademia, almeno in Italia, soprattutto non partoriscono le facoltà di scienza della comunicazione. Mi trova perfettamente affine in questa sua lettura della fantastica possibilità che oggi ha l'immaginario di sovrapporsi alla realtà. Secondo lei cosa risponderanno i nostri ascoltatori alla mia domanda di quali sono gli strumenti, i vettori, i supporti dell'immaginario oggi? Lei l'ha studiato profondamente in questo libro e gliene do atto. Che cosa risponderanno i lettori? Sì, le chiedo una profezia. Sì, una profezia. Dunque, se si lasceranno... Lei cita Nietzsche, dice, quando aveva profetizzato che il mondo vero sarebbe diventato favola. Siamo in un momento fantastico in cui si avvera questa profezia di Nietzsche. Il mondo vero è diventato favola. Io lo trovo affascinante. Qualcuno si strappa le vesti e dice, Dio mio, in che mondo siamo finiti? Ma lei come la pensa? Io penso che si è avverata la profezia di Nietzsche, il mondo vero è diventato favola. Questo significa che non si sono avverate né le profezie apocalittiche, diciamo, di Orwell, che volevano un grande fratello, no? Che controllava il mondo, né l'idea di un'utopia della comunicazione dove tutti riescono a comunicare con tutti, quindi la società trasparente di cui parlava anche Vattimo, eccetera. In realtà il mondo è diventato favola, nel senso che il mondo è un mondo in cui la narrazione, la narrativizzazione della realtà è diventata fondamentale a tutti i livelli, quindi non più soltanto gestita dalla grande macchina, diciamo, delle industrie culturali, ma anche ad esempio dagli attori sociali individuali, appunto dai social network, dai blog, dove ognuno appunto, no, costruisce la propria micronarrazione. Però l'immaginario sicuramente è riemerso dopo anni in cui, diciamo, l'Occidente moderno l'aveva un po' emarginato. C'era un grosso anatema sull'immaginario. Esatto. Sembrava che l'immaginario appartenesse a un mondo decaduto, decadente e soprattutto reazionario. Marcello, buongiorno, il primo ascoltatore, poi sentiremo un'altra campana. Marcello. Buongiorno, ma veramente il mio giudizio è un po' più tranchant. Ma per fortuna qualcuno ha giudizi tranchant, tutti cercano di mediare oggi, è il mondo della mediazione e della vasellina nei confronti culturali, quindi sia tranchant. No, io dico semplicemente questo, al di là di quelli che possono essere gli strumenti di cui oggi ci si può avvalere, io credo che gli italiani fondamentalmente, per essere un popolo sostanzialmente rozzo e quindi presuntuoso, però non si rendono conto che immaginano addirittura di immaginare, e oltre questo non vado. Eh no, devi spiegare meglio, perché essere criptici ha senso se si è poeti, se no bisogna spiegarlo. Immagino che mi spieghi bene questo concetto, perché non l'ho capito, ma è il mio limite. Cioè, nel senso che se noi ci guardiamo intorno e osserviamo di quali spettacoli a qualsiasi livello l'italiano si compiace e di essere attore, ma anche fondamentalmente di seguirli, e considerando quanto questi spettacoli possono coinvolgere la passione e l'entusiasmo della... Ma ne dica uno, perché so sembra la solita cosa della politica, dalla politica al Grande Fratello, al calcio, dovunque lei vuole. Quindi lei è per ritorno a una sana etica dell'immaginario condiviso. Guardi, l'italiano si limita, è un opinionista che si limita a giudicare, a formarsi. L'italiano è stato un grande maestro dell'immaginario. Sì, ma guardi, bisogna andare molto indietro nel tempo, talmente indietro che... Io ieri ho visto una fantastica rappresentazione dell'immaginario collettivo nella trasmissione di Santoro, me ne sono compiaciuto, sì, è stato divertente. Ma lasciamo perdere, quelli sono... Ma perché lei vuol dare un'etica per forza all'immaginario, ad essere in delle categorie etiche, ad essere buono? Perché se gli italiani sapessero... Ma perché si appiglia tanto con gli italiani? Parla in generale dell'umanità, se no sembra che ha un pregiudizio sugli italiani. No, per carità, io sono un italiano... Ma lei piace immaginare? Qual è il suo supporto dell'immaginare? Ma guardi, nel mio lavoro io ho dovuto immaginare. E che lavoro fa? Io sono un operatore nell'ambito della scienza con la S minuscola, perché sa la S maiuscola. Cioè, ma sì, in concreto, in soldoni, che fa? Beh, io ho fatto ricerca nell'ambito della chimica farmaceutica, per cui... Cioè, sembra, lo dice con una vergogna, sembra che fabbrichi preservativi, serenamente. No, sa perché? Perché io, per essere un professore universitario, le devo dire verità, ho molte reticenze in proposito, cioè... Ma lei non deve vergognarsi perché si occupa di chimica, perché qui ho un professore che si occupa di immaginario. No, la chimica è una grande poetica. Piano, dottor Nicoletti, non mi fraintenda, io non mi vergogno, sto cercando semplicemente di non celebrare quella, una posizione che sicuramente potrebbe essere degna di merito, probabilmente io me la sono meritata, però va dichiarata con semplicità e con prudenza, è questo che sto dicendo. Ma guardi che la modestia ostentata è molto più colpevole della vanagloria e del narcisismo. Per carità, guardi, la qualità docente italiana purtroppo pecca di... Ma c'è tanto con gli italiani, io spero che verrà un giorno qualcuno che la farà riprendere fiducia nel suo paese. Grazie Marcello. Piero Dorfles, buongiorno. Buongiorno. Se no divaghiamo troppo. Piero Dorfles, ti ho portato, Piero, perché spero tu faccia l'antitesi dell'ospite che ho qua in studio. Piero Dorfles, sono qui a fare il dinosauro. È il ritorno del dinosauro, una difesa della cultura, edizione Garzanti. Piero Dorfles lo conoscete, è un giornalista, un critico letterario, anche personaggio dell'unica residua trasmissione del servizio pubblico dove ancora si parli di libri e di cultura, che però... Penso che tu abbia, se ben ricordo, idee un po' diverse sui moderni e i contemporanei supporti dell'immaginario e quelli classici, strutturati. Ma tanto per cominciare io non vorrei demonizzare nulla, perché è vero che la rappresentazione che ci danno i mezzi di comunicazione contemporanei è ricchissima e per certi versi è uno spettacolo formidabile. Quello che vorrei dire è che di fronte alla peraltro formidabile capacità sinestetica, nel senso di dare insieme tutti gli strumenti di musica, immagini, parole, sentimenti che danno la televisione e le altre cose che hanno insieme, tutti questi strumenti di comunicazione, esiste ancora narrazione romanzesca, e questa non è la narrazione che ci danno i giornali quando ci dicono come si rappresenta oggi la realtà, le favole vendoliane sulla narrazione della politica. La narrazione è lo strumento con il quale attraverso una storia si danno le possibilità di trasfigurare la realtà e di raccontarcela in modo diverso da quello che è la quotidianità. E voglio citare l'incipit di un libro uscito da poco di Alfonso Berardinelli, comincia così, dice: non c'è persona al mondo, neanche la più prossima, neanche la più cara, che possiamo conoscere così intimamente e totalmente come un personaggio di un romanzo. È molto rivelatrice questa frase, perché ci dice una cosa, cioè che il romanzo in realtà non parla solo dell'ambiente, della realtà, della tecnica, della società, parla degli uomini e di come gli uomini possono vivere la loro vita. Ecco, qui c'è qualcosa che nient'altro riesce a superare. Il romanzo può raccontarci dal di dentro quello che pensa un uomo, cosa che non può fare nel cinema, nella televisione, nella rete. Allora, Silvia Leonzi, rispetto a quello che ha detto adesso Piero Dorfles, qual è il segno di differenza? Secondo me è che la materia di cui sta parlando Dorfles è materia che riuscirà a sorpassare il tempo, il velo della storia, I grandi romanzi ce li ricordiamo, anche i grandi romanzi contemporanei. Dei grandi romanzi contemporanei si crea un sottoimmaginario collettivo che non è quello che passa nei grandi talk show televisivi, ma vive, persiste, fa sì che un certo autore e un certo genere prevalga in un certo periodo. Ecco, come si fa la differenza? Bisogna aspettare che passi il tempo e distrugga ciò che è fatuo e consolidi ciò che è già degno di essere consolidato? Ma i grandi romanzi ce li ricordiamo, è vero, ma ci ricordiamo secondo me anche i grandi film. Quello che ci ricordiamo sono le grandi storie, non le grandi narrazioni, appunto nel senso di vendono, ma veramente le grandi storie dove ci sono diciamo alla base del racconto degli archetipi, quelli che poi l'industria culturale, ma anche i romanzi, come dire, trasformano in stereotipi, ma non in senso negativo, li rendono accessibili. Quindi ci ricorderemo le storie, grandi romanzi, grandi film, dove effettivamente esiste un tessuto narrativo forte, potente, però diciamo l'immaginario non è soltanto, come dire, distrazione, non è soltanto eversione, quindi non è soltanto leggerezza, ma è anche, sia nella letteratura che nel cinema, la capacità di creare mondi alternativi. Quindi ecco, lei ha fatto un parallelismo fra gli archetipi classici della narrazione e gli archetipi contemporanei, archetipi maschili, archetipi femminili. Ci fai un paio d'esempi per capire meglio, perché è vero, è giusto, L'eroe passa attraverso delle prove, l'eroe è un momento trasfigurazione, l'eroe poi alla fine riesce a raggiungere uno scopo. Oggi l'archetipo contemporaneo qual è? Allora, gli archetipi sono sempre gli stessi. Questo non significa che bisogna, come dire, appiattirsi su uno strutturalismo che è quello, diciamo, di Prop o di altri autori. Gli archetipi rimangono gli stessi, ma funzionano quando sono resi dinamici, cioè un tronista come il Pelide Achille. Non so se un tronista è come un Pelide Achille, però sicuramente, diciamo, la vorrei fare, diciamo, alcuni personaggi politici di cui non faccio il nome, particolarmente aggressivi, donne aggressive possono essere simili a delle dark lady, no, del cinema noir. Pensa alla Santa Anche lei, è mica un'offesa, anzi, sì, un paragone penso, alto, aulico. Penso alla Santa Anche, penso alla strega di Biancaneve. Penso alle femme fatale, appunto. Sei d'accordo, Piero Dorfles? Ma sì, certamente qui ci sono degli archetipi che si materializzano dentro la narrazione televisiva, e trovo affascinante l'idea che si possa trasformare la strega di Biancaneve nella Sant'Anché, che mi sa molto più cattiva della strega. Detto questo, però, credo che ci sia ancora da ripetere quella vicenda della trasformazione degli archetipi, perché quando si dice che la televisione o la rete possono dare tutto, in realtà si dice quello che appunto si può rappresentare per immagini. Ma facciamo un esempio tipico: tutti conosciamo la storia di Moby Dick e della Balena Bianca, ma il capitano Ahab che noi vediamo nel film è un personaggio che parla soltanto in primo piano, non pensa, noi non sappiamo cosa pensa e soltanto leggendo il libro ci arriveremo. E pensiamo quanto più complicato è raccontare quella storia di straordinaria allegoria che è la metamorfosi di Kafka, un impiegato che la mattina si sveglia trasformato in un immondo insetto. Un film potrebbe farci vedere questo immondo insetto, ma un film non potrà mai spiegarci cosa pensa, quello che è il sentimento struggente di un uomo che, trasformato in un animale disgustoso, non riesce più ad avere contatto con la realtà. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Regali un bel destino anche a questa ragazza, ma che sia un destino alla Liala, mi raccomando. Cioè, è una ragazza che ha una volontà, e allora le potrei dare un bel pilota bruno alto, con gli occhi azzurri, che sappia dominarla, ma sappia anche darle qualche senso di poesia. Un giorno me la porti in campagna, magari su una modesta 600, la porti attraverso i prati, le parli molto di voli. I grandi scrittori e i critici sottili storcono il naso di fronte ai suoi romanzi, ma Liala e le sue lettrici rimangono. A che cosa attribuisce il suo eccezionale e persistente successo? Ma probabilmente al fatto di aver sempre capito le mie lettrici e i loro problemi. Povera signora Amalia Liana Cambiasi Negretti o Descalchi, detta Liala. Oggi suona sinistro sentire Le auguro di trovare un bell'uomo che la sappia dominare. Subito non immagina manette, fruste, tute di gomma e via dicendo. Beh, Liala, che ha questa sua fissazione autobiografica per gli ufficiali d'aeronautica, di marina e di aviazione, in realtà riempì l'immaginario di fanciulle per vari decenni. Oggi sembra datata, ma questa intervista fatta negli anni 60 già la poneva come antitesi a qualcosa che rappresentava la contemporaneità. Sentite come va avanti. Il suo stile è così anacronistico nell'epoca di Pierpaolo Pasolini, è spontaneo oppure soddisfa un'esigenza dei lettori? Guardi, voglio essere sincera, è un pochino spontaneo e anche un pochino per soddisfare le esigenze dei miei lettori, perché oramai sono abituate a questo stile, vogliono questo stile. Se io tentassi di evaderne o di imitare, ammesso che io ne sia capace, lo stile di Pasolini, non lo accetterebbero da Liala. Secondo lei il mondo è quello suo o quello di Pierpaolo Pasolini? Ah, guardi, sinceramente, senza peccare di immodestia, le posso dire che per tre quarti il mondo è ancora il mio e per un quarto quello di Pasolini. Volare. Piero Dolfs, cos'è questa pezza colori di Pasolini che da 40 anni, allora negli anni 60, considerato come l'apologeta di ogni trasgressione, oggi ancora viene richiamato da destra, da sinistra. Sembra che abbiamo un così forte bisogno di questo unico riferimento che abbiamo poetico e letterario negli ultimi 50 anni. Ma probabilmente qui c'è una sorta di distrazione di massa sul fatto che Pasolini è stato soprattutto un grande polemista e tutto sommato non è stato il grande romanziere che lui stesso forse sperava di essere. I suoi romanzi oggi sono considerati delle specie di trattati antropologici, quello che racconta Pasolini e il modo in cui si viveva a Roma in quegli anni, il sottoproletariato, un modo anche molto marginale di vivere e di sopravvivere. Diciamo che a noi è rimasta questo tratto della sua letteratura, mentre invece si rimane fortissima quello che è stata la sua capacità di analisi dei fenomeni culturali di quel tempo. Basti pensare alla questione dell'omologazione, di cui con grande anticipo Pasolini ha colto la nascita del grande ceto medio di oggi, che in qualche modo ha appiattito e smussato le differenze di una volta. Ma questo è il personaggio Pasolini. Io credo che andrebbe subito guardato anche quell'altro pezzo della produzione pasoliniana, che è quello cinematografico, nel quale lui ha trasferito innanzitutto alcune grandi narrazioni della storia, il Decamerone, Canterbury, eccetera, ma anche alcune allegorie straordinarie, come per esempio quella di Uccellacci Uccellini o quella di Teorema. Lì ci sono dei momenti in cui Pasolini riesce a essere vertiginosamente profetico, e cioè quando racconta la fine della periferia romana di Uccellacci Uccellini e come fa il bravo narratore, perché lì è veramente un narratore, improvvisamente, togliendo la parola a Totò e a Netto Davoli, che sono soltanto esseri umani, fa parlare un corvo, che è l'unico che può parlare con la voce della storia. Ed è come il coro greco che riesce a tirare fuori da quello che è la rappresentazione allegorica delle cose il senso ultimo della vicenda. Silvia Leonzi, che ricordo, autrice dello spettacolo dell'immaginario, i miti, le storie e i media, edizioni Tunuè. Come diceva appunto Piero Dolfs, forse ci ricordiamo di Pasolini, che è stato la maniera più alta e più coerente di trasformare quelli che erano gli archetipi dell'immaginario, della narrazione, attraverso i nuovi supporti, appunto il cinema. È riuscito poeticamente a farci ricordare dei classici che si studiavano malvolentieri, poco e male, a scuola, in un periodo che c'era questo grande ostracismo nei confronti di una narrazione classica, attraverso il cinema, e per questo ce lo ricordiamo. Certo, Pasolini è un personaggio ovviamente controverso, straordinario, un grande interprete della crisi della modernità dell'Occidente, no? E dell'Italia, quindi il nostro sviluppo. A me sospettisce solo che oggi tutti se ne facciano bandiera. Sì, lo tirano. Questa un è l'unica po'... cosa che un po' mi fa sospettare. Lo tirano un po' da tutte le parti, proprio perché essendo così controverso e complesso può essere, no, interpretato in vari modi, quindi si possono prendere tante parti di Pasolini, un po' un corpo che si può affrontare. Male. Però, come diceva lei poco fa, appunto, Pasolini ha una forte impostazione classica, ha lavorato molto sul mito, penso a un film su tutti che è Medea, no? Medea, dove esattamente si racconta il mito della madre che appunto uccide i suoi figli, che poi ritorna nell'immaginario, al cinema, in letteratura. Però ci ricordiamo più Uccellacci Uccellini, Totò, Netto Davoli e il corvo che la Medea. Questo bisogna dirlo. Non lo so, non sono sicura. Sì, credo che ci ricordiamo tutti e due. Da un lato c'è il Pasolini politico, appunto opinionista, come diceva Dorfles, quindi l'idea del suo rapporto anche conflittuale sia con la religione che con il Partito Comunista. Dall'altro però c'è il Pasolini del mito, il Pasolini appunto del, come dire, greco, il Pasolini anche delle giornate di Salò, se vogliamo, cioè quello più con anche la sventura, la disgrazia, ma da un punto di vista, altro punto di vista, la gloria di avere una fine tragica, cruenta, irrisolta, che ti consegna comunque alla storia. Sentiamo Claudio, buongiorno Claudio. Fede, la discussione che state facendo mi introduce perfettamente il ricordo che ho della teoria della zucca, che saccheggio da un racconto basato sulla realtà cinese in cui c'è un incontro interessantissimo tra un magistrato che poi diventerà consigliere imperiale dell'imperatrice Wu e un monaco taoista che porta al fianco una zucca e che è un diciamo seguace della teoria della zucca. Attenzione, perché ieri abbiamo citato un film di Benigni che si confessa con un magistrato, con un cardinale dal suo tassì, confessa il suo peccato giovanile che si accoppiava con una zucca. Ma guardi che discorso si attaglia, perché cosa dice sostanzialmente questo monaco taoista, questo filosofo che era una filosofia di vita? In fondo l'uomo che cos'è? Che cos'è la realtà se non una gigantesca zucca, che di per sé non è niente, è vuoto, la zucca era, veniva vuotata all'interno perché veniva utilizzata per una miriade di usi, dal trasporto delle medicine a quello che era, cioè, ma in realtà la zucca è il vuoto che si riempie a seconda di chi la gestisce, cioè è chi la ha. Lei quindi vede, diciamo, un grande vuoto che è il potenziale contenitore dell'immaginario e chiunque può riempirlo. E la cultura è esattamente questo, il libro, saluto il professor Dorfles a cui devo una divertentissima diatriba su una casa di Trieste, ma diciamo che cos'è? Adesso non entrate nei vostri fatti personali. No, magari, questo lo saluto, quindi è bene che è l'omaggio per l'intelligenza che ha. Dico, che cos'è se non una gigantesca zucca a cui ciascheduno, rappresentando se stesso nell'interno della zucca, gestisce e porta sé nell'interno, cioè la sua realtà, questa mutabilità e questa, in fondo è il discorso che avete fatto con Pasolini e con Liala. Pasolini che viene utilizzato in mille maniere in questa funzione zucchesca in cui ciascuno cerca di introdurre se stesso, sopraffacendo in un certo senso la zucca stessa. Piero Dorfles, la fermo, la blocco, se no devo far partire la motosega. Piero Dorfles, questo signore con cui ha avuto diatribe su case triestine di cui non vogliamo sapere, non alla radio. Nulla, non ricordo. Beh, sai, è un millantatore probabilmente. Poi questa sua teoria della grande zucca in cui tutti vorrebbero entrare, che mi porta sempre più in maniera scurrile al discorso di Benigni di ieri. Ma io trovo che in realtà non sia esattamente così, forse nella metafora taoista, in una visione, in una cosmogonia diversa dalla nostra. Insomma, l'immaginario non è un vuoto da riempire, è qualcosa che c'è e che ogni tanto riappare sotto varie forme. No, sono assolutamente d'accordo. La cosa è che bisogna distinguere tra quello che è l'immaginario, diciamo così, democratizzato della rete e quello che è l'immaginario codificato di quello che rimane poi nella storia della narrazione e della letteratura. Ecco, uccidiamo un po' di illusioni, ecco. Io sono tutti poeti. Un po' attenti a pensare che siccome in rete tutti possiamo scrivere quello che vogliamo, quello diventa storia, quello diventa letteratura. È un momento estremamente labile che una volta si faceva nei discorsi da bar e oggi si fanno i discorsi di rete. Il fantastico vantaggio della rete è l'immediatezza e il collegamento internazionale, per cui possiamo scambiare sciocchezze anche con chi vive agli antipodi. Però se uno ci mette dentro appunto solo sciocchezze, in questa la teoria della zucca è perfetta, sempre vuoto rimane. E quindi quello che conta alle volte sono anche i contenuti, la capacità espressiva e quella dimensione appunto di trasfigurazione della realtà che solo la vera letteratura ci può dare. Se uno guarda all'indietro, naturalmente può scoprire che Liala ha lasciato sì traccia nella sua dimensione, diciamo, un po' commerciale di letteratura sentimentale, ma certo non ha lasciato la stessa traccia che ha lasciato, per dire, il Moravia degli indifferenti o del conformista. Lì, secondo me, ancora oggi, guardando indietro, possiamo imparare una grandissima lezione, cioè lì l'archetipo del comportamento di personaggi che non riescono a diventare protagonisti della loro vita, ma sono vittime in qualche modo appunto del conformismo, della incapacità di scegliere e quindi lasciano lo spazio all'autoritarismo e a forme dittatoriali che cambiano la vita della collettività, è un emblema di che cosa succede quando l'uomo rinuncia a essere protagonista della sua epoca, e questo vale per tutti i tempi. Ecco, ci fermiamo un secondo, dobbiamo dare la linea alle informazioni del traffico. 800240024, abbiamo capito che esiste una velleità individuale che non fa male a soddisfare, fa bene alla salute e impedisce che noi siamo nocivi agli altri, che è l'autoletteratura che passa attraverso la rete, i blog, i romanzi autopubblicati e via dicendo, e la grande letteratura che le tracce le lascia, perché ancora ne parliamo e la ricordiamo. Si è connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma non è un film da capire, è un film da sentire. Ma invece sai perché il cinematografo ha creato proprio un tipo di spettatore che è corrotto. Il cinema è proprio una forma di arte che non lascia campo alla meditazione, ma ti dà un'aggressione di tipo fisiologico sempre. E quindi ha proprio condizionato un tipo di ricezione che è proprio manovrata da fuori, dagli autori, dall'autore. È una tastiera dove tu spingi dei bottoni e quello ride, quello piange, qui sta in sospensione. Quindi sono macchine proprio. Quando un film si presenta senza questi trucchi e ti dice solamente: io non ti voglio far prevedere il finale, non voglio che tu dica questo è cattivo, questo è buono, e ti racconto con grande sincerità le cose, lo spettatore rimane perduto, non capisce più un cazzo. I want to say sì, I want to say sì, movies, has to be. Questo era Federico Fellini che descriveva la possibilità, la capacità del produttore, del regista, dell'autore di film, aveva una grande macchina in cui muoveva le varie corde, le varie sensibilità come fosse un vario diapason, e condizionava appunto la richiesta di immaginario del proprio pubblico. Ricordo questa mattina stiamo parlando di immaginario, di narrazione, di narrativa. Ricordo anche che domenica sarà legato al Sole 24 Ore appunto per l'iniziativa e racconti d'autore, Rapimento in famiglia, altri racconti di John Fante, una possibilità di lambire la grande letteratura a quattro soldi, e se qualcuno non avesse letto prima questi libri può leggerli adesso. Abbiamo in studio Silvia Leonzi, che è autrice dello spettacolo dell'immaginario, I miti, le storie e i media, edizioni Tunuè. Silvia Leonzi, il maestro Fellini è molto anticipatore di quella che è la realtà che oggi stiamo vedendo tutti i giorni. L'immaginario è costruito attraverso delle macchine. Macchina non è un termine moderno, è un termine antichissimo, anzi è un termine che appartiene più alla metafisica che alle scienze razionali. Lei è d'accordo? Sì, Fellini ovviamente anche lui è un grande anticipatore. Forse non parliamo di macchine, parliamo di dispositivi. Del resto, dalla lanterna magica in poi, l'immaginario è stato prodotto da grandi dispositivi, dalla penna, diciamo, no, di cui parlava Dorfless a proposito dei libri, appunto ai dispositivi del cinema. Ma Fellini è soprattutto un maestro appunto dell'immaginario, perché con la sua macchina ha creato, come dire, prodotti cinematografici che sono di grande impatto onirico. Quindi anche lui ha utilizzato archetipi, anche ispirandosi, come dire, al bacino simbolico della psicanalisi. Quindi lui aveva un forte legame con la psicanalisi e anche un po' con lo spiritismo, con la magia, era un grande superstizioso. Però oggi chi manovra i dispositivi contemporanei, grandi dispositivi dell'immaginario collettivo, parolaccia di cui lei parla ampiamente nel suo libro, ha questa consapevolezza, deve ricorrere ad altre regole, sono altri gli input, devi ribadire degli stereotipi, quindi dei luoghi comuni e non degli archetipi. Perché? Perché sappiamo che funzionano, danno quel tipo di risposta e noi dobbiamo ottenere appunto una risposta. La consapevolezza oggi sicuramente c'è molto di più di quanto non ci fosse appunto negli anni in cui parlava Fellini, però ecco, non c'è soltanto da parte di chi produce, ma anche da parte di chi recepisce. Quindi anche diciamo una parte dei consumatori è un po' più, come dire, competente. È chiaro che giustamente Fellini parla del potere delle immagini e parla addirittura quasi di una risposta, come dire, neurofisiologica, no? che ha a che fare proprio con le immagini, con la sala stessa cinematografica, che è un dispositivo quasi, no, che produce una sorta di immersione, no? Un po' come i media virtuali, come la virtualità. Guardi, quindi, gli studi stanno facendo più recenti, dei quali che non posso che appoggiare perché me ne ero reso conto già qualche anno fa, pare che gli ambienti immersivi, ma anche semplicemente il social networking, metta in azione alcune endorfine, alcuni neurotrasmettitori, sono quelli tipici dell'emozione, dell'appassionamento, appunto, se no non si spiegherebbe perché milioni di persone passano il tempo davanti a una tastiera, certo, se non desse gusto, se non muovesse qualcosa di profondo, di radicale, di organico. Luca, buongiorno. Oh, buongiorno, salve, innanzitutto complimenti per l'ottima trasmissione. Sì. Niente, in realtà il discorso che le stavo proponendo forse si attaglia un pochino di più alla prima parte del programma. Lo attagliamo anche adesso, vada avanti. Ok, niente, io sto pensando che forse dall'antichità classica all'attuale agorà di internet, con tutta probabilità ben poco è cambiato nell'uomo, ovviamente. Cambiano appunto le macchine, quello che stava dicendo adesso la sua ospite. Forse adesso si tende a addirittura mitizzare quello che è stato. Piero Dorfes, abbiamo dato una dimostrazione pratica che in realtà le macchine attagliano, sì, meritava l'attaglianamento perché non c'è di peggio che le velleità di costruzioni, invece dobbiamo semplicemente essere molto più semplici, molto più immediati. Se volessimo tirare, se avviciniamo verso le conclusioni, Piero, le conclusioni. Non siamo dalla parte di quelli che si stracciano le vesti, ai bei tempi in cui avevamo soltanto i libri, non siamo nemmeno... No, per fortuna abbiamo molto di più. Infatti, non siamo nemmeno gli affascinati, fanatici della contemporaneità che permette a tutti di essere protagonisti di qualcosa. Qual è una posizione su te equa nei confronti della letteratura, della narrativa, della creatività e dell'immaginario? Ma io penso che bisogna dare spazio a tutte le immaginazioni e tutte le capacità creative che ci sono in circolazione, ma non vanno assolutamente sopravvalutate. Ci sono pochi geni sulla faccia della Terra e in un secolo ci possono essere 10 grandi scrittori, sperare che lo diventiamo tutti è una follia. E questo ha già dato più o meno. D'altra parte però io credo si debba riconoscere alla letteratura un ruolo che non le si può negare, molto semplicemente la modernità, quella che noi vogliamo sia rappresentata, certo passa attraverso le testimonianze della rete, passa attraverso la televisione e il cinema, però noi ritroviamo, se guardiamo con attenzione, il nucleo centrale del disagio della nostra epoca dentro la nascita dell'uomo moderno, l'uomo solo, l'uomo che decide per conto suo, che si trova inadeguato alla sopravvivenza, che scopre il sesso, la vita, tutto quello che il Novecento ha scoperchiato dell'essere umano come essere solo davanti alla storia. Certo, uno quando dice Dio è morto si sente liberato all'inizio, poi cominciano i problemi, è giusto che questi problemi ce li affrontiamo. Una battuta, l'ultima battuta, Silvia Leonzi, queste macchine dell'immaginario contemporaneo sono gli unici filtri che definisce la vera letteratura da quella velleitaria o ce ne sono altre? Chi è il grande giudice di ciò che passerà alla storia, se non la storia? Sì, il grande giudice di ciò che passerà alla storia appunto è la storia. L'immaginario è qualcosa, è un bacino, è un flusso, è un bacino simbolico, è qualcosa che si controlla in parte, in realtà non va controllato. La scoperta, diciamo, della crisi della modernità è proprio questa, cioè lasciar scorrere l'immaginario, lasciarli prendere, diciamo, la forma che vorrà, che poi necessariamente sarà la forma. Non poteva finire in maniera migliore dire che in realtà il grande giudice dell'immaginario è un bacino incontrollabile. Mi piace molto l'idea. Ci sentiamo lunedì. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.